con l'autore attore Emiliano Valente per parlare del progetto spin-off e dell'evento Resistenze a Roma, Spintime Labs, venerdì 26 aprile 2019. Emiliano, ben trovato. Ciao a tutti, ciao Federico, grazie di avermi chiamato e di darmi questo spazio, grazie mille. Cominciamo parlando del progetto spin-off di cui abbiamo parlato in più occasioni, ma con gli artisti direttamente coinvolti. Adesso invece parliamo del progetto complessivo. È un progetto utopico, definiamolo così. Siamo un collettivo di più di 20 persone di età completamente varia, dai 20 anni fino a quelli un po' più grandini tipo me. Ci siamo messi da un anno a chiacchierare molto su che cosa potevamo fare, insomma, per smuovere un attimo la situazione romana che era un po' stagnante. E avendo a disposizione un auditorium da 180 posti, abbiamo pensato di ritirarlo su, farlo diventare un teatro e iniziare una stagione. Abbiamo iniziato lo scorso anno a maggio con un evento che si chiamava Babele, che si svolgeva in tutto il palazzo di Spintime, che è un palazzo occupato con abitazioni nei piani alti e nei piani nostro e quelli sotterranei invece dedicati a tutte le altre attività di tipo culturale e non solo, perché ci sono, vabbè, falegnameria, stampa e grafica, trattoria e altre attività. E la trattoria, insomma, è un'attività in essere lì. E in più ci siamo noi, appunto, che abbiamo preso questo auditorium, abbiamo fatto diventare un teatro e stiamo da 2 mesi ospitando un cartellone, da esattamente 2 mesi, perché abbiamo iniziato il 17 di febbraio con Andrea Cosentino e proseguiamo fino a giugno, ci sono ancora una serie di altri eventi. E tra questi appunto una piccola nostra produzione che si chiama Resistenze, che si terrà il 26 di aprile, a partire dalle 19. L'evento Resistenze coinvolge più artisti, ci sono più momenti nella giornata, vero? Ci sono più momenti. Ospitiamo Simone Amendola che viene a presentarci il suo libro in cui racconta la sua esperienza fatta insieme a Valerio Malorni nei vari teatri italiani, insomma una forma di resistenza appunto per la sua resistenza teatrale, per quello abbiamo pensato di coinvolgerlo. Poi, Simone e Valerio sono stati anche in scena da noi appunto nel Castellone. Loro alle 19 presenteranno il libro, ci sarà Sergio Locatto, ci saranno altri ospiti, forse Valerio stesso che leggerà alcuni tratti. Poi ci sarà una piccola performance mia con la regia di Roberto Annossi del Logo Teatro. Daremo vita in una saletta sempre dello spin più piccola, una piccola performance di 15 minuti. Poi proseguiremo con uno spettacolo dell'Associazione Teatrale Macondo con la regia di Alessandra Chieri. In scena ci saranno Emilio Barone, che è anche l'autore del testo, e Francesco Petti. Il titolo dello spettacolo è Milton, ed è un lavoro su vari testi di Beppe Fenoglio. E a seguire ancora un po' di musica con Giorgia Frisardi e la sua fisarmonica. E quindi diciamo che partiamo dalle 7, andiamo avanti fino a tardi, è una giornata dedicata al tema di resistenza, l'abbiamo preso da un lato diverso, non solo raccontare storie di partigiani e di memoria, ma provare anche a raccontare le forme di resistenza esistenti e quelle che continuano ad esserci e che vanno incentivate, come l'esperienza di Simone, come una cosa piccola, la performance che racconterò io sulla situazione di chi fa l'operatore, magari insieme ai migranti, insomma una serie di vicende, di lati che andiamo a toccare partendo da un comune principio che è quello di dover resistere, insomma, per quello la parola la usiamo e la incentiviamo. Insomma, come termine. Quindi sì, l'invito è quello di partecipare già da prima, perché comunque è a partire dalle 19 e poi si proseguirà. Insomma, la prima fase è gratuita fino alle 20:30, poi ci sarà un posto per lo spettacolo dell'Associazione Teatrale Macondo. Oh, per chi fosse interessato a contribuire a questo progetto spin-off, che riferimenti possiamo dare? Una pagina Facebook che è Spinoff, poi c'è Spinoff Art su Instagram, ci possono contattare e soprattutto io invito anche a venirci a trovare. Noi tutti i martedì alle 19:30 ci riuniamo come collettivo, la porta è aperta e siamo pronti ad accogliere proposte, miglioramenti, scambi, tutto quello che ne consegue. Cioè, ci teniamo tantissimo a dirlo che è un posto aperto nel vero senso della parola e che non è nostro, non è di nessuno, noi stiamo facendo solo un'azione di volontariato lì dentro in 25 adesso, se diventiamo 50 è anche meglio. Vogliamo solo, insomma, portare una proposta diversa, insomma, differente a Roma, e siamo pronti a cogliere qualsiasi suggerimento, qualsiasi aiuto, qualsiasi appoggio, qualsiasi sostegno. Quindi, a parte le pagine social, che appunto ripeto è spin-off quanto riguarda la Facebook, spin-off art per quanto riguarda Instagram, però il resto, insomma, a voce preferiamo, quindi chiunque può venire a via Statilia 15 o via Santa Croce in Gerusalemme 55, sono i due indirizzi per entrare, e il martedì sicuro, e se no quando ci sono gli eventi ci trovano lì, possono parlare tranquillamente con noi di qualsiasi proposta hanno, suggerimento, insomma, quello che vogliono. È lo spirito con cui portiamo avanti tutto. Bene, allora intanto ricordiamo l'evento Resistenze a Roma, allo Spin Time Labs, venerdì 26 aprile 2019, ho visto che c'è comunque l'evento Facebook. Un saluto e un ringraziamento ad Emiliano Valente di Spin Off, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille Federico, grazie a tutti e grazie a te soprattutto per lo spazio, e spero di vederti appunto il 26, che si possa essere dei nostri, insomma. Bene.